Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Gli anni 60 del secolo scorso sono fondamentali per il nostro paese e non solo per le grandi trasformazioni economiche, sociali e politiche che caratterizzarono quel periodo, dal cosiddetto miracolo economico della fine degli anni 50 al coinvolgimento del Partito Socialista nel governo, ma anche per i primi concreti esperimenti di programmazione economica. Stiamo parlando del tentativo di proiettare le linee portanti della politica economica su un orizzonte pluriennale. Uno dei principali protagonisti di quella stagione fu l'economista Paolo Silos Labini, scomparso il 7 dicembre del 2005. Famosissimo, lo ricorderete tutti, il suo saggio sulle classi sociali che negli anni 70 ha fatto scuola. Del ruolo e l'opera di Silos Labini parliamo questa sera con il professor Sandro Amorosino, docente di diritto dell'economia alla Sapienza di Roma, prendendo spunto dal suo intervento pubblicato su Moneta e Credito del giugno scorso sul tema La programmazione economica e la riforma urbanistica 1962-1967. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Paolo Silos Labini, come componente della sottocommissione Saraceno nominata dal governo, fu uno dei protagonisti dell'elaborazione del programma economico generale negli anni dal 1962 al 64 e in quest'ambito colse appieno la correlazione tra sviluppo economico e controllo dei tumultuosi processi di crescita urbana che furono all'origine del parallelo processo di tentata riforma urbanistica nei medesimi anni, dal 62 al 67. Silos Labini aveva una concezione giuridica del mercato come organizzazione basata su strutture e regole ordinanti. Una visione dissonante rispetto a molti economisti italiani marginalisti dell'epoca. Silos Labini riteneva che l'intervento pubblico nell'economia dovesse essere in funzione dello sviluppo sia economico che civile. Le convergenti finalità della politica urbanistica e della programmazione vennero in piena evidenza nella prima metà degli anni 60, allorché la tematica del governo dello sviluppo prese il centro della scena politica e culturale, individuando la sua leva nelle riforme di struttura e il suo vettore principale nella programmazione economica generale, sino a farne una sorta di totem. Allora, professor Amorosino, la riforma urbanistica è centrale in quegli anni. Quali furono i punti salienti? La riforma urbanistica era divenuta centrale proprio perché era in corso un tumultuoso processo di urbanizzazione, lo spopolamento delle campagne, l'emigrazione dal sud al nord, la concentrazione industriale, ma anche a Roma per esempio terziaria. E quindi si trattava di dare ordine a questo complesso processo. In quest'ambito i problemi essenziali erano due. Il primo, far funzionare i piani urbanistici previsti dalla legge del 1942, ed il secondo, assicurare un regime dei suoli che riducesse la rendita urbana o perlomeno trasferisse i grandi guadagni dovuti alla rendita di posizione di terreni diventati edificabili, la trasferisse in parte all'erario pubblico. Ecco, lei, professor Amorosino, ricordava che era un periodo di tumultuosa esplosione dell'urbanizzazione, ma quali anni furono gli anni 60? Trascorso il periodo drammatico del dopoguerra e della successiva grande opera di ricostruzione del paese, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, il tessuto economico, produttivo e sociale dell'Italia viene attraversato da una trasformazione radicale. Finalmente ora l'Italia può ridurre quel divario con Francia, Germania e Inghilterra che esisteva fin dai tempi della sua costituzione in stato unitario nel 1861. Cominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico, reso possibile dall'insieme di molti fattori, fra i quali anche la presenza di manodopera abbondante e superiore alla domanda, che permette alle imprese di contenere le rivendicazioni salariali e quindi di abbassare i costi di produzione, anche la scoperta sul territorio nazionale di giacimenti di nuove fonti energetiche, come il gas naturale, frutto del prezioso lavoro svolto nel dopoguerra dall'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, e dal suo presidente Enrico Mattei, risulta essere un prezioso elemento per la crescita. Si inaugura il primo tratto dell'autostrada del sole. Nel mondo si afferma l'immagine del Made in Italy come sinonimo di qualità. Allora, Made in Italy, sinonimo di qualità, professore. Eppure lo sviluppo economico di quegli anni non fu affatto governato dalla programmazione. Perché non se ne fece nulla? Fanfani, ricordiamo, la definì un libro dei sogni. Le cause sono state essenzialmente politiche, ma anche di impostazione di queste programmazioni. Parlo al plurale perché le due programmazioni, quella economica generale e programmazione rinnovata della riforma urbanistica, andavano di pari passo. Negli studi di quegli anni ogni programma generale aveva le sue proiezioni territoriali, cioè le sue previsioni di localizzazione sul territorio dello sviluppo. Ma le dicevo, le prime cause, diciamo, sono di tipo culturale. La cultura della programmazione, diffusa in molti ambienti politici, perché allora c'era una forte compenetrazione fra impegno scientifico, culturale e impegno politico. Questa cultura, diffusa in ambienti cattolici, in ambienti socialisti e in qualche parte della cultura comunista come programmazione democratica, era molto astratta, cioè pensava che facendo un piano economico nazionale o la riforma della legge urbanistica, per ciò stesso si riuscisse a governare l'economia. Ecco, in questo contesto come si inserì l'azione e l'operato di Paolo Silos Labini, professore? Paolo Silos fu uno dei protagonisti della elaborazione del piano, ma fu anche uno degli autori scientifici, insieme a Fouat, che organizzarono le idee in un suo famoso libro, Idee per la programmazione. Ma naturalmente non fu solo Silos, fu per esempio in ambito cattolico un altro grande economista, Ciro Lombardini. Quindi c'era una convergenza, poi possiamo anche parlare di Francesco Forte, insomma c'era una maturazione comune sulla necessità di questa programmazione. Naturalmente il problema era quello dell'atterraggio di questi piani e programmi in un contesto economico, sociale, ma anche politico, che probabilmente non era pronto ad accoglierli, o probabilmente non era pronto ad accoglierli nella versione hard, nella struttura forte. E quindi, ripeto, sia per resistenze di tipo politico, perché a partire dalla seconda metà degli anni 60 la spinta innovativa del centrosinistra venne via via scemando, sia perché non ci fu supporto sufficiente da parte dell'opposizione comunista all'epoca, sia perché i tentativi di riforma urbanistica basati sulla possibilità di espropriare le aree di espansione delle città per farne delle riserve da far gestire ai comuni per governare lo sviluppo urbano avevano generato dei contraccolpi molto forti, soprattutto nell'elettorato moderato, per la somma di questi motivi, sia il piano economico che la riforma urbanistica tramontarono. Infatti, professore, l'ultima domanda riguarda proprio la riforma urbanistica nuovamente, che fu oggetto di un duro scontro politico del quale possiamo trovare tracce nelle ricostruzioni storiche della crisi del primo governo Moro. Eravamo nell'estate del 64. Assolutamente sì. E, fra l'altro, libri recenti di storici che hanno ricostruito le tappe di questa crisi hanno mostrato che uno dei punti di scontro, soprattutto, o se vogliamo dire di resistenza, soprattutto da parte dell'ala moderata della DC e quindi del Presidente della Repubblica Segni, fu proprio la riforma urbanistica. E il Presidente, il professor Aldo Moro, si trovò, come si dice, quasi preso nella tenaglia fra chi voleva svuotare il governo di ogni spinta riformista e chi, i socialisti, volevano invece proseguire su quella via. Sta di fatto che il programma economico venne approvato con legge addirittura nel 1967, ma rimase appunto del tutto inattuato. Del tutto inattuato. Professore, grazie per essere stato con noi e per averci fornito tutti questi chiarimenti. Buona serata. Grazie a voi per aver ricordato Silo Slabbini e quell'epoca di impegno civile. Grazie e buonasera.